L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, bentornati all'altro pianeta, quello della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Torniamo a parlare di edilizia sostenibile ed energie rinnovabili in questa puntata e lo faremo attraverso alcune aziende e istituzioni italiane che si preparano a presentare le loro eccellenze sul mercato internazionale in occasione di una delle principali fiere dedicata appunto alla edilizia ed alla energia. Questa fiera si chiama Ecobuild e si terrà a Londra a fine marzo, dal 20 al 22 di marzo per l'esattezza. Coordina la presenza italiana alla manifestazione la Camera di Commercio Italiana per il Regno Unito, di cui Giuseppe Paoletti è vice segretario generale. Bentornato, un piacere ritrovarla un anno dalla scorsa edizione di Ecobuild. Buon pomeriggio, un piacere tutto nostro, tutto mio, sì. Passato un anno e siamo ancora qui. Siete ancora lì, l'anno scorso fu un grande successo quello italiano a Londra, le aziende parteciparono a frotte, furono più di 100 se non sbaglio, costituirono il più grande dei padiglioni della fiera. Quest'anno come stiamo andando? Siamo un po' in ritardo, però insomma stiamo cercando di fare meglio dell'anno scorso. Finora chi più ha dato la sua adesione? Aziende del settore edilizio, che ben sappiamo qui essere in forte difficoltà, o aziende del settore delle energie rinnovabili? Ma all'inizio soprattutto energie rinnovabili, con tutte le aziende della filiera del solare in primis. Diciamo, quello del settore edilizio hanno ritardato un po', diciamo, le loro conferme, però adesso diciamo, si stanno muovendo, diciamo, dopo Natale sembra che ecco, si stiano ripartendo anche un po', diciamo, un po' più di fiducia nelle aziende italiane, quindi diciamo, osano un po' di più e stanno confermando la loro presenza a Londra a fine marzo. Lei mi diceva, Paoletti, che in primis hanno aderito le aziende del settore delle rinnovabili, perché il mercato britannico è quest'anno, diciamo 2012, diverso da quello del 2011? Ma diciamo c'è stato un piccolo cambio di regia, diciamo verso la fine del 2011 c'era una grande confusione riguardo il conto energia che era stato annunciato proprio l'anno scorso in occasione di Ecobuild 2011. Dopo questo piccolo cambio, diciamo, di un po' di confusione riguardo questi finanziamenti che dovevano arrivare, diciamo, c'è stata la conferma che sono stati, diciamo, riconfermati, chiaramente non in maniera, diciamo, imponente come ci si aspettava, però diciamo, questo dà un segnale positivo e di fiducia, diciamo, nelle aziende che vogliono venire a investire in Inghilterra. Cioè, c'è spazio insomma per queste aziende per attrarre più aziende, diciamo, nel territorio inglese, in un periodo dove, diciamo, in molti paesi, in Italia in primis, diciamo, non si capisce che se ci sono o non ci sono questi finanziamenti dagli enti pubblici per tutte queste aziende impegnate nel rinnovabile, solare in primis. E quindi diciamo è un'opportunità, la situazione incerta in Italia, la situazione che si va definendo in Gran Bretagna costituiscono un momento buono per spostarsi e guardare all'estero? Assolutamente, che poi si affianca, diciamo, a una piattaforma diciamo, collaudata e fortemente, diciamo, vincente della manifestazione in sé Ecobuild, diciamo, che è stata acquisita quest'estate nel luglio 2011. La manifestazione è stata acquisita da una multinazionale degli eventi quale UBM per 52 milioni di sterline, che in un periodo, diciamo, di crisi e di difficoltà economiche significa, diciamo, molto più di altre cose. Un format che tra l'altro quest'anno poi probabilmente, se non sbaglio, va anche in altri continenti, no? Va in India, va in Cina. Quindi... Esatto, sì, insomma, a seguito appunto di questa acquisizione, questo nuovo gruppo la lanceranno ad aprile del 2012 in Cina, a Shanghai, mentre in ottobre del 2012 in India, per poi seguire nel 2013 con il lancio in Brasile e nei paesi degli Emirati Arabi. Siccome in questa trasmissione però parliamo più che altro di sostenibilità e di ambiente, torniamo indietro, sul mercato inglese. Ad esempio lì lei mi diceva gli incentivi cominciano a definirsi in maniera più precisa, c'è interesse da parte anche della popolazione per questo settore, per non avere, non so, costruttori che costruiscano in un certo modo, energia che sia prodotta in un certo modo, perché poi sappiamo che anche è la richiesta del mercato che fa anche genera il movimento, il business. Sì, non c'è proprio la mentalità, diciamo, anche della popolazione inglese, diciamo, che è molto predisposta, diciamo, al risparmio energetico, diciamo, qua vicino vicino a Londra, ad esempio, hanno realizzato un villaggio, diciamo una sorta di cittadina interamente ecosostenibile al 100%, diciamo. Realtà che in Italia ancora, ad esempio, ci sono sempre un po' di problemi sociopolitici, magari, che rallentano la realizzazione di questo tipo di progetti. Allora, adesso andiamo a sentire qualche testimone di coloro che hanno deciso di essere a Ecobuild. Torna a Ecobuild quest'anno Sanerg Solar di Città di Castello, provincia di Perugia. È un'azienda che produce e distribuisce sistemi che utilizzano l'energia solare per la produzione di acqua calda, per la corrente elettrica e anche come sistema di riscaldamento complementare. Abbiamo parlato con Daniele Lauri, che è il vicepresidente, e gli abbiamo chiesto perché tornate. Siamo una realtà italiana che siamo nel settore del solare da tanti anni. Questi ultimi anni abbiamo visto una crescita notevole per quanto riguarda la nostra azienda ed anche il settore, mentre il 2011 è stato un momento difficile, proprio perché le leggi italiane stanno in qualche modo bloccando il settore. Questo ci sta spingendo a rivolgersi anche verso nuove realtà, nuove nazioni che in qualche modo incentivano il solare e permettono anche alla nostra azienda di poter comunque crescere. Quindi in questo senso voi tornate in Gran Bretagna perché là la legislazione sta favorendo le energie rinnovabili e il solare in particolare? Sì, è una nazione emergente, potremmo dire. Abbiamo visto nel 2011 un aumento delle richieste verso la nostra azienda e verso i nostri prodotti, e anche se in Inghilterra c'è dell'incertezza su come andranno le cose, abbiamo cercato di in qualche modo rischiare, comunque prendendo uno stand ancora più grande rispetto a quello del 2011, proprio per investire in queste nuove realtà emergenti. E questo ci sta dando ragione, perché il governo inglese, piuttosto che bloccare, sembra che sta ancora più incentivando. C'era un po' di incertezza. Paoletti, non che avessi bisogno di una conferma delle sue parole, però insomma anche chi proprio è un esperto e lavora nel settore conferma, insomma, la situazione a Londra si va definendo, è il momento buono per chi lavora nel solare, in particolare per partire per la Gran Bretagna, no? La miglior conferma, appunto, è poi sentire quello che dicono le aziende. È quello che dicono le aziende. La Tanner conferma questa situazione, insomma, conferma questo loro investimento, che è maggiore rispetto al 2011, diciamo, secondo me è un segnale forte anche per tutte le altre aziende magari che non hanno ancora deciso di rischiare. C'è sempre un rischio di impresa, no? C'è sempre un rischio di impresa, sì. Però per esempio un'altra, passiamo subito a un altro caso, ci va per la prima volta in questa fiera Ecobuild a Londra Graniti Fiandre, che è un'azienda di Castellarano, provincia di Reggio Emilia, specializzata nella produzione di lastre in gres porcellanato tecnico, e quindi qui siamo più sul settore edilizia. Ce ne parla Rossella Minervini, che è marketing e web manager. Cosa significa essere ecocompatibili in questo settore? E poi via via, perché siete andati? Significa che andando a utilizzare in maniera consapevole le risorse energetiche, ma anche poi riciclando tutti gli scarti che provengono dal ciclo ceramico, dal ciclo di produzione ceramico, è possibile anche per un'industria produrre in senso più consapevole e in senso più compatibile con l'ambiente. Un'esperienza che, insomma, diciamo adesso vi porta ad attraversare la Manica. Per presentare quali prodotti all'attenzione del pubblico inglese? Il prodotto sul quale l'azienda punta moltissimo è questa lastra ecoattiva che si chiama Active Clean Air and Antibacterial Ceramic. È una lastra in porcellanato arricchita in biossido di titanio che interagisce quindi proprio in maniera attiva con l'ambiente, portando ad un abbattimento quasi totale degli NOx e anche dei principali ceppi batterici, come per esempio la Klebsiella pneumoniae e le Escherichia coli. Scusi la mia ignoranza, parliamo di qualcosa da usare per esterni o per interni? Entrambi. Si può usare, è un materiale che viene utilizzato per rivestimenti e pavimenti interni ed esterni. Insomma, anche qui una dimostrazione di genio italico. Ne avrete tante, immagino, in fiera di situazioni come questa. Assolutamente, sì. Noi speriamo di confermare, ad esempio, le centinaia di aziende che avevamo l'anno scorso e anche di incrementarle. Poi quello che abbiamo notato quest'anno, oltre alle aziende storiche, per i rinnovabili, tutte le aziende del solare, man mano vediamo negli anni che si sta ampliando proprio la gamma anche di settori che riusciamo a portare in fiera qua a Londra, ad esempio Graniti Fiandre 1, con tutta la parte della pavimentazione, e pian pianino apriamo anche all'arredamento di interni, proprio quindi agli arredi. Abbiamo ad esempio un'altra azienda italiana che ha deciso di venire ad EcoBuild a Londra a lanciare un nuovo tavolo ecosostenibile, che se pensiamo all'azienda classica che potrebbe essere convogliata in una fiera sulle rinnovabili, non c'è un punto di incontro, però loro stanno lanciando questa nuova linea di tavoli a impatto zero e hanno deciso il mercato inglese quale piattaforma internazionale per lanciare questo loro nuovo marchio. D'altro canto sono anni di ricerca, di investimenti che le aziende hanno fatto e che quindi vogliono assolutamente far fruttare. Ad esempio, per raggiungere questo obiettivo c'è anche l'Agenzia Piemontese per gli investimenti, l'export e il turismo, la cui partecipazione è coordinata dalla Camera di Commercio di Torino, e ci ha parlato appunto della loro missione, di quello che sperano di ottenere da questa partecipazione Guido Bolatto, che è segretario generale della Camera di Commercio di Torino. Noi quest'anno puntiamo molto nella nostra partecipazione ad EcoBuild a Londra a un evento di brokeraggio tecnologico destinato ad aziende, università e centri di ricerca che cercano collaborazioni tecnologiche nel settore appunto dell'edilizia ecosostenibile. Cosa vorrebbe dire brokeraggio tecnologico? Sono sostanzialmente l'organizzazione, la pre-organizzazione, quindi si arriva lì già con un'agenda di incontri personalizzati, mirati ed efficaci, tra nostre aziende e appunto centri di ricerca, università e aziende che altre controparti che partecipano a EcoBuild. Ovviamente l'evento di brokeraggio si regge sul fatto che entrambi le controparti cerchino tecnologia, uno cerchi di comprarla, l'altro cerchi di venderla, quindi cerchiamo di mettere assieme le opportunità per tutti. Quindi è un'occasione per andare in fiera non solo per farsi vedere, ma andare già con degli appuntamenti fissati. Con degli appuntamenti prefissati, magari anche per sviluppare assieme delle cooperazioni nello sviluppo di nuove tecnologie. Che tipo di aziende sono quelle del Piemonte che parteciperanno? Sono più sul settore edilizio o più settore energie rinnovabili? Di entrambi, noi puntiamo ad entrambi. Hanno voglia di andare all'estero o la crisi le ha un po' ripiegate sul nostro territorio? Direi esattamente il contrario, la crisi gli ha fatto capire che solo cercando nuovi mercati possono sopravvivere, anche perché sempre di più la crescita delle nostre imprese è guidata dai mercati esteri. Chi sta andando bene, sta sopravvivendo bene in questi anni sono le imprese che esportano. Giuseppe Paoletti, sempre in collegamento con noi da Londra, è il vice segretario generale della Camera di Commercio italiana per il Regno Unito. Ha sentito queste ultime testimonianze. Le aziende italiane hanno voglia di partire perché gli investimenti anche in sviluppo e ricerca sono stati fatti. Adesso è il momento di proporsi al mercato. Soprattutto, anche come sembrava capire dalle interviste, di proporsi al mercato inglese e in generale ai mercati esteri. Pertanto tante aziende mi dicono sempre: ormai abbiamo toccato il fondo, adesso dal fondo si può solo risalire. Scherzando, ma non troppo, visto come vanno le cose, insomma, no? Però è bello anche pensare ad aziende che lo fanno, che tentano questa risalita attraverso l'ecosostenibilità e il maggior rispetto per l'ambiente. Sono gli obiettivi che anche Bruxelles ci pone e che quindi è bello rispettare anche in questo modo, facendo impresa. Assolutamente, sì, bisogna magari farsi forza, magari molte piccole e medie aziende magari si vengono assieme, si fanno forza tra di loro per poter essere competitivi e soprattutto per riuscire a far capire che cosa rappresenta essere, che cosa può rappresentare l'azienda del Made in Italy. L'altro pianeta. Bentornati all'Altro Pianeta, abbiamo parlato di EcoBuild, una manifestazione che si terrà a Londra a marzo nella prima parte del programma. Restiamo in tema di edilizia sostenibile ed energie rinnovabili con Christophe Bouzeau, che è amministratore delegato di Groupama Assicurazioni, la filiale italiana del gruppo assicurativo francese. Perché parliamo di sostenibilità con Bouzeau? Perché è stata inaugurata recentemente la nuova sede italiana di Groupama a Roma ed è stata concepita utilizzando ritrovati per l'efficienza energetica, la riduzione dei consumi e i servizi per i 750 dipendenti in Italia. Sentiamo. Sul piano economico abbiamo giustamente lavorato e ragionato così. Ci siamo detti c'è un investimento, ma non è una spesa, è un investimento, è molto diverso. Quindi c'è un costo, ma l'investimento è giustamente il fatto che ci saranno risparmi e ci sono già risparmi, perché già dal primo anno, il primo giorno abbiamo risparmi sia su rispetto a il vecchio palazzo, un altro palazzo, abbiamo risparmi sia su, per esempio, il consumo di energia, ma come abbiamo anche cambiato per esempio tutto l'impianto delle stampante, abbiamo un risparmio forte sulla carta, perché stampiamo molto meno, abbiamo un risparmio legato a un impianto totalmente diverso dell'informatica, siamo passati su un sistema che si chiama il VDI, quindi tutti i computer sono leggeri, non c'è più niente sul computer, sono tutti collegati a dei server. Permette di avere un risparmio immediato di 30% rispetto all'ultimo palazzo, 30% ogni anno fa un po' di soldi, quindi permette di ritrovare entro qualche anno il ritorno sull'investimento che abbiamo fatto. Senta, la sede di Roma vi mette in linea con le altre sedi estere del gruppo oppure è una novità anche per il gruppo? Siamo molto più vicini adesso dei standard del gruppo sicuramente, ma ci sono delle cose in più. Per esempio abbiamo lavorato molto sulla parte informatica e questo VDI del quale ho parlato non è ancora molto diffuso, neanche nel nostro gruppo, non è molto diffuso nelle aziende in generale. Quindi siamo anche un po' avanti su questo lato, per esempio. Abbiamo anche molto lavorato sul risparmio di energia, quindi siamo piuttosto allineati con gli ultimi progetti all'interno del nostro gruppo. È normale, perché è un progetto ricerca. Certo, e l'ultima questione, proprio che è un progetto di ricerca, il tipo di scelte che avete fatto per il benessere dei dipendenti sono state fatte sulla base di indicazioni che sono arrivate dai dipendenti, dalle vostre altre esperienze? Avevamo già, perché questo fa anche parte del benessere dei dipendenti, avevamo già un gruppo che si chiama Uniamo le Energie, che lavorava, è un gruppo trasversale che lavorava su come risparmiare, come vivere un po' diversamente nel palazzo, fa parte anche d'un atteggiamento verso i dipendenti, perché è stato fatto con loro. Quindi per esempio abbiamo lavorato molto in anticipo per creare delle convenzioni con diverse aziende, per avere servizi, avevamo una navetta nell'ultima sede, qui lo facciamo ancora molto meglio perché c'è la metropolitana, quindi questa navetta privata che funziona benissimo permette di raggiungere la sede dalla metropolitana nell'arco di 6 minuti. Come la metropolitana è vicina della sede, qui abbiamo anche scelto di sostenere il 50% del costo dell'abbonamento sottoscritto dai lavoratori. Ed è il momento di un nuovo appuntamento per l'Altro Pianeta, ma non è un nuovo appuntamento per gli ascoltatori di Radio 24, perché Mr. Kilowatt si sposta e adesso ci raggiunge settimanalmente per raccontarci cosa c'è di nuovo nel panorama delle energie. Bentornato a Maurizio Melis. Ciao Laura, buon pomeriggio a tutti voi. Oggi voglio parlarvi di come cambiare l'aria in casa, perché pochi sanno che esistono regole precise. Un ricambio perfetto si ottiene in 4 minuti a finestre e porte spalancate e in 7 minuti con le sole finestre spalancate, 7 minuti che diventano 30 se si tratta di finestre basculanti. Rispettando queste tempistiche si riesce a ricambiare completamente l'aria, evitando però che anche i muri si raffreddino inutilmente. Ancora meglio però sarebbe installare un sistema di ventilazione meccanica controllata che assicura il massimo risparmio energetico, oltre al mantenimento di condizioni stabili, diciamo, di salubrità dell'aria. I moderni sistemi di ventilazione meccanica recupero di calore, infatti, che tra l'altro solo da poco si applicano anche alle abitazioni, sono in grado di assicurare il ricambio dell'aria con perdite di calore davvero minime. In pratica questi apparati fanno sì che l'aria calda proveniente dall'interno, prima di essere espulsa dall'appartamento, ceda il proprio calore all'aria fresca che proviene da fuori. La quota di calore recuperato in questo modo può raggiungere, pensate, il 90%. A una condizione però, che viviate in una casa già molto ben sigillata, cioè fondamentalmente priva di spifferi, una caratteristica che oggi hanno solo le case più evolute dal punto di vista energetico, come quelle che vengono messe in classe B o in classe A. In caso contrario, infatti, l'apparato funzionerebbe inutilmente perché cercherebbe di espellere l'aria dall'interno, ma l'aria dall'esterno entrerebbe non più passando attraverso lo scambiatore di calore che consente di recuperare l'energia, ma semplicemente attraverso le fessure, a volte anche invisibili, che si possono nascondere persino nell'impianto elettrico e che abitualmente punteggiano le case degli italiani. Insomma, se non vivete in una di queste case ad alta efficienza, molto meglio continuare ad affidarsi alle finestre. Con questo è tutto, appuntamento a settimana prossima. E prima di chiudere, articolo 9, come l'articolo 9 della Costituzione che dice: la Repubblica Italiana tutela il patrimonio storico e artistico della nazione. E come sempre il microfono va a Marco Carminati. Buongiorno da Marco Carminati. L'Italia è piena di parole come sughereto, la sughera. Sono toponimi che indicano la presenza diffusa in tutto il nostro territorio di questa bellissima pianta che è il sughero. Di sughero parliamo oggi con Carlos Santos, che è l'amministratore delegato di Amorim, che è l'azienda leader nel settore del sughero. Buongiorno, dottor Santos. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ecco, so che lei è in viaggio, ma si è fermato per noi, e io comincio a chiederle, proprio per la sua conoscenza così capillare di questa bellissima pianta, se noi dovessimo fare a volo d'uccello un giro per l'Italia, dove incontreremmo i sughereti più importanti e più spettacolari nel nostro paese? I sughereti più importanti in Italia si localizzano soprattutto in Sardegna, cioè Sardegna è la regione d'Italia che ha la maggiore concentrazione di sugherete. Comunque lo possiamo anche trovare in Toscana, nella Maremma Toscana, lo possiamo trovare nel Lazio, in Calabria e possiamo anche trovare in Sicilia. L'Italia produce circa 6% del sughero a livello mondiale e tutta la produzione di sughero avviene intorno al Mediterraneo e nella penisola iberica. Insomma, quindi siamo un bel paese anche dal punto di vista del sughero. Io ricordo, per ricordi personali, delle meravigliose sugherete intorno all'abbazia di Fossanova nel Lazio meridionale, che facevano da contorno a questo monumento come se fossero davvero dei dipinti del Grand Tour. È una pianta che noi sfruttiamo davvero da tanti secoli, vero dottore? Esatto, perché il sughero da sempre la chiusura d'eccellenza per il vino, è un qualcosa che fa parte del DNA. Io so che lei nella sua azienda ha avviato un programma di riciclo del sughero, perché questo materiale naturalmente non va sprecato. Ecco, che cosa significa riciclare il sughero? Voi considerate che il sughero è una chiusura 100% sostenibile, ma lo può essere ancora di più se noi questa materia prima, una volta che noi la sappiamo, cerchiamo di inventarci una nuova vita. Il sughero è un materiale isolante per eccellenza. Considerate che oggi i migliori prodotti di isolamento provengono esattamente dal sughero. Sì. La nostra iniziativa è molto semplice, è andare a raccogliere i tappi usati che vengano oggi buttati non si sa dove, nella spazzatura generica. Recuperare questi tappi, trasformare questi tappi in materia prima da incorporare in materiale di isolamento, in questo caso malte di sughero. Quindi è da applicare concretamente a che cosa questi materiali? Come rivestimenti esterni per le case. Ah, nell'edilizia. Sono aziende specializzate in Italia che producono malte a base di sughero e cemento, e questi vengano date nell'esterno della casa come ad esempio il cappotto. Quanto sughero consumiamo in un anno? Possiamo pensare abbondantemente a oltre 700 milioni di tappi che annualmente vengano buttati al macero. Però io so che dal vostro punto di vista il sughero ha un altro importantissimo ruolo, che è quello, lei prima diceva, è una pianta del Mediterraneo, che è quello appunto di fermare il deserto. Perché il sughero serve per tenere a bada il Sahara? Il sughero, se lei guarda la cartina geografica forestale, vedrà che si circonda il mar Mediterraneo. Sì. È l'unico albero che resiste a condizioni anche di poca acqua, terreni sabbiosi. Allora, negli anni, nei secoli, questa pianta si è insediata esattamente tra il deserto del Sahara e il sud dell'Europa, ed è un'importante barriera all'avanzata del deserto, ma non solo, diventa anche un fattore importante per combattere la desertificazione sociale, perché dove c'è la pianta di sughero c'è un'attività economica, c'è popolazione che si fissa. Considerate, certo, che ci sono circa 100.000 persone che dipendono dirette e indirettamente dalle industrie del sughero. Senta, dottor Santos, credo che con queste sue parole noi adesso staremo un pochettino più attenti a maneggiare questi preziosissimi tappi, perché sappiamo che li possiamo riciclare, quindi speriamo che l'appello che lei ha lanciato si traduca in un virtuoso comportamento e nelle nostre case ci abituiamo piano piano a mettere da parte anche il sughero. E poi appunto la consapevolezza che lei ci ha così ben chiarito, che questa pianta è una pianta importantissima perché ci aiuta a tenere a bada il deserto e ci aiuta a far sì che le persone che vivono vicini ai sugheretti abbiano di che vivere e naturalmente di che socializzare. Io la ringrazio molto per questa sua presenza. Grazie a voi. Grazie dottor Santos, e a tutti gli ascoltatori auguro una buona giornata. Ed è tutto per questa puntata dell'Altro Pianeta. Potete scriverci come sempre con questo indirizzo email, l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini un grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora.